Quando si è sommersi dalla puzza dei rifiuti in Campania, l'odore della camorra non è poi tanto disgustoso. Incredibile dichiarazione quella fatta al settimanale Oggi da un esperto dei problemi della giustizia come Aldo Giannuli, che sulla drammatica situazione rifiuti in Campania continua. La regione non si è data un inceneritore e sostiene costi altissimi per trasportare i rifiuti in altre parti d'Italia, mentre per Legambiente esiste un settore dell'economia italiana che non conosce crisi ed è quello delle ecomafie. Legambiente ha contato i clan che si occupano di rifiuti e costruzioni abusive. Sono 169, un esercito di uomini, soldi, affari sporchi. Palermo è una città vivace che guarda con ottimismo al futuro per diventare capitale del Mediterraneo, punto d'incontro tra popoli, culture diverse. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Diego Cammarata, che ha ricevuto a Villa Niscemi 70 iscritti dell'associazione Ordine dei Figli d'Italia in America, presieduta da Joseph Sciame, una delle più importanti e numerose associazioni di italiani a New York. La delegazione sarà ricevuta a Roma dal presidente della Repubblica Ciampi. Brevemente in chiusura, le proteste dei lavoratori della Fiat di Melfi nel Potentino, la polizia carica i dimostranti, feriti, sono 8 giorni che la produzione è bloccata. Cartoon Shot Bay chiude a Positano il Festival dell'Animazione, 2 premi per l'Italia con il mondo di Stefi e Pimpa, una giornata speciale. Giovanni Farsati di Reporter Associati per Amisnet Radio, email giovannifarsati@hotmail.com.